Ad alta voce. Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Da qua mi segua, disse al signore che gli veniva dietro il vecchio cameriere dai piedi storti in fuori, che lo facevano andare in qua e là con le gambe piegate. Attraversarono sui soffici tappeti polverosi tre stanze morte in fila, in ognuna delle quali il cameriere, passando, apriva gli scuri dei vecchi finestroni tinti di verde. Il mattina rimase in piedi, cogitabondo, in mezzo al salone. Poi scrollò le spalle, seccato, volse uno sguardo distratto in giro, vide uno specchio alla parete di fronte e vi si appressò. In quel vasto specchio, dalla luce tetra, la propria immagine gli apparve come uno spettro e ne provò un momentaneo turbamento indefinito. Spirava da tutti i mobili, dal tappeto, dalle tende, quel tanfo speciale delle case antiche, di una vita appassita nell'abbandono, quasi il respiro di un altro tempo. Il mattina stava per scostarsi dallo specchio, allorché sul piano della mensola, chinando gli occhi, scorse qua e là tanti bei mucchietti di tarlatura disposti quasi con arte, e si chinò a mirarli con curiosità. Ah, avevano lavorato bene quelle tarme, e nessuno intanto pareva tenesse in debito conto la loro fatica. Eppure il frutto, eccolo là, bene in vista, che diceva: questo è fatto, portate via. Con una smorfia trasse dal tavolinetto tondo innanzi al canapè un album, in capo al quale era il ritratto del padrone di casa, il canonico Agro. Il mattino esaminò quel viso come se nei tratti di esso volesse scorgere la ragione dell'invito ricevuto la sera avanti. A che diamine poteva voler da lui l'Agro? Il dissidio di questo canonico gran signore col partito clericale, dissidio che suscitava tanto scandalo in paese, era proprio vero? O non piuttosto un atteggiamento concentrato, insidioso, per tradir la buona fede dell'Auriti, penetrar nel campo avversario e sorprenderne le mosse? Affidarsi di una volpe, quel colloquio segreto col preola, e se fosse tutto un tranello? Alzò gli occhi, volse di nuovo lo sguardo attorno e di nuovo, dall'immobilità silenziosa di quei vecchi oggetti senza uso e senza vita, si sentì turbato. Quasi che essi, per averne egli scoperto le magagne, lo spiassero ora più ostili. Udì per le tre stanze in fila la voce del vecchio cameriere che diceva: da qua, me segua. Posò l'album e guardò in direzione dell'uscio. Oh, guido Veronica. Caro Detta, rispose il Veronica fermandosi in mezzo al salone. Tu cuoque? Domandò allora il cavalier Mattina. E non so di che si tratti, gli rispose il Veronica con l'aria di chi voglia nascondere un segreto. Oh, e neanche io s'affrettò a sorgiungere il Mattina con indifferenza. Ho ricevuto un invito, e posò gli occhi senza sguardo sulla fronte del Veronica, sconciata da tre lunghi raffrigni in vario senso, ferite riportate in duello. Torni da Roma? No, da Palermo. E non ti trattieni molto? Non lo so. Dimostrava chiaramente il Veronica, con quelle secche risposte, che voleva restar chiuso in sé per non darsi importanza con ciò che, volendo, avrebbe potuto dire. Difatti il suo compito adesso era questo: mostrarsi seccato, anzi stanco e sfiduciato. Per sua disgrazia, egli, e tutti lo sapevano, aveva un ideale: la patria. Rappresentata, anzi incarnata tutta quanta, nella persona di un vecchio glorioso statista, il Crispi. Ma ormai, caduto quel vecchio, anche la patria per lui era caduta. Trionfava la Marmaglia. Ah, non era noia la sua, era propriamente schifo di vivere. Non credeva affatto che Roberto Auriti potesse vincere, quantunque sostenuto dal governo. Ah, per il suo vecchio venerato, che ancora intorno all'avvenire della patria si illudeva come un fanciullo, gli aveva imposto di recarsi a Girgenti e a combattere per l'Auriti. Il cavalier Mattina si mosse sulla poltrona, sbuffando e prendendo un'altra postura. Domando e dico, ma che cosa ci stiamo a fare qua noi due? Sentiremo, sospirò il Veronica. Non vorrei che... Il cavalier Mattina si interruppe, vedendo aprir l'uscio ed entrare, lungo e curvo sulla sua magrezza, il canonico Pompeo Acro. Facendo cenno con ambo le mani ai due ospiti di rimaner seduti, disse con una vocetta stridente. Edovenia, stiano seduti, prego. Caro Veronica, cavaliere Esimio, qua, cavaliere, senga qua, accanto a me. Non ho paura dei suoi peccatucci di gioventù. Sì, gioventù, sorrise il cavalier Mattina, mostrando il capo grigio. Il canonico trasse dal petto un vecchio orologio d'argento. Sarebbero disposte, lor signore, a venire un momentino con me? E dove? Domandò il cavalier Mattina. In casa di Roberto Auriti. Tanto, amico mio, tanto, fin dall'infanzia. Lo sanno lor signori, I nostri padri, più che fratelli, compagni d'arme. Quello di Roberto a Melazzo e il mio cadde al Volturno. Storia questa. Se ne dovrebbe tener conto in paese, invece di menare tanto scalpore per la mia... Come la chiamano? Diserzione già. La veste, sì signore, ma sotto la veste c'è pure un cuore. E ce l'ho anche io per la santa amicizia. E anche... Il canonico forse voleva aggiungere per la patria. Lo lasciò intendere con il gesto e pose un freno alla fuga del sentimento generoso. Si sforzava di parlar dipinto, con un risolino arguto sulle labbra, strofinandosi di continuo sotto il mento le mani ossute. «Prima d'andare», riprese, cangiando tono, «due paroline per intenderci. Avrei meditato e messo su un piccolo piano di battaglia. Non la pretendo a generale, no, loro signori combatteranno, io porterò il gamellino. Ecco, ben ponderato tutto, il nostro più temibile avversario. Chi è? Il capolino? No. Ma chi gli fa da spalla? Il Salvo, già suo cognato, il potentissimo. Ora io, da buona fonte, so che il Salvo, fino a pochi giorni fa, non voleva permettere in verun modo questa comparsa del capolino. Ah, sì, confermò il cavalier Mattina, a causa delle trattative di matrimonio tra la sorella e il principe di Laurentano. Ecco, benissimo, approvò il canonico. Ma il Salvo concesse la grazia di fargli spalla appena seppe che il principe non intendeva d'aver riguardo alla parentela dell'Auriti e ordinava non ne avesse parimenti il partito. Stando così le cose, le sorti del nostro Roberto sono quasi disperate. Non ci illudiamo. Lo so, sbuffò il Veronica. Subito il canonico lo fermò con un gesto della mano, seguitando. Ma se no, ecco, poniamo che noi, signori miei, a dispetto della libertà concessa dal principe, riuscissimo a legare le mani e i piedi al colosso, al Salvo, Come? Ecco, e sarebbe questo il mio piano. Il canonico si alzò. Pronti, disse. La vettura è giù. Un momentino, col loro permesso prendo il cappello e il tabarro. Poco dopo, il Veronica e il cavalier Mattina rividero il vecchio cameriere dai piedi storti, vestito da cocchiere, e salirono in vettura con l'Agrò. Venendo su dal Rabato per piazza San Domenico, notarono subito un movimento insolito lungo la via maestra. 4 o 5 monellacci, correndo e fermandosi qua e là, strillavano il giornaletto clericale Empedocle, che pareva andasse a ruba. Empedocle! Empedocle! E per tutto si formavano capannelli, qua a leggere, là a commentare vivamente qualche articolo, certo violento, stampato in quel foglio. Il Veronica, vedendo passar presso alla vettura uno di quegli strilloni, non seppe resistere alla tentazione, e mentre il canonico, che per le vie della città in quei giorni si sentiva in mezzo a un campo nemico e consigliava meglio a casa, beh, si fece buttare nella vettura una copia del giornale. La prese il cavaliere. Leggo io, e cominciò a leggere sottovoce l'articolo di fondo, quello che indubbiamente suscitava tanto fermento nel pubblico. Era intitolato Patrioti per bisogni di famiglia e si riferiva, senza far nomi, ma con turpe evidenza, alla memoria di Stefano Auriti, padre di Roberto, alterando con vilissima calunnia la storia romanzesca del suo amore per Caterina Laurentano. La fuga dei due giovani poco prima della rivoluzione del 1848, la parte presa da Stefano Auriti a questa rivoluzione, non già per amor di patria, ma appunto per bisogni di famiglia, cioè per la conquista di una dote insieme con le grazie del suocero per forza, ricco, liberale, ma, ahimè, di una inflessibilità superiore a ogni previsione. Man mano, leggendo, la voce del cavalier Mattina si alterava dallo sdegno, acceso maggiormente dall'indignazione del ladro, che prorompeva di tratto in tratto, accennando a turarsi le orecchie e buttandosi indietro. Vigliacchi! Vigliacchi! A un certo punto, il cavalier Mattina si vide strappar di mano il giornale. Guido Veronica, pallidissimo, col volto scontraffatto dall'ira, aprì lo sportello della vettura, ne balzò fuori e, senza sentire i richiami del canonico, si lanciò di furia tra un crocchio di gente, in mezzo al quale stava il capolino, a cui schiaffò in faccia il giornale, stropicciandoglielo sul muso. L'aggressione fu così fulminea che tutti restarono per un momento storditi e sgomenti. Poi s'avventarono addosso all'aggressore, accorse gente vociando da tutte le parti. Nel mezzo era la mischia, fitta. Volavano bastonate tra urli e imprecazioni. Il Mattina non ebbe tempo né modo di cacciarsi in difesa del Veronica, ma poco dopo l'abbarruffio, lì nel forte, si allargò. La rissa era partita. Il canonico chiamava il cavalier Mattina, smaniando dalla vettura. Questi udì alla fine e si volse, ma vide in quella il Veronica senza cappello, senza lenti, strappato, ansimante tra una frotta di giovani che evidentemente lo difendevano, e allora accorse. Ritornò poco dopo alla vettura del canonico. «Niente», dice, «stia tranquillo, andiamo pure, è tra amici, se l'è cavata bene». Il canonico tremava tutto. Signore Dio, che scandalo, ma perché? Schifosi! Non conveniva sporcarsi le mani. E ora, a chi avverrà? Oh, fece con una certa sprezzatura il cavalier Mattina. Un duello, è semplicissimo. O una querela, se la santa religione non consentirà a quel farabutto di dar conto delle turpitudini che pure gli ha permesso di sfognare. La religione, scusi. Lasciamola stare, cavaliere, disse Pompeo Agrò pacatamente. Non c'entra, e mi lascia dire, non c'entra neppure il capolino. Oh, e come no? Mi lascia dire, io so chi ha scritto l'articolo, quella sozzatura. Il preola venuto stamani da me, non so da chi spedito, brutto ingrato e feccia d'uomo. Ma il capolino, è direttore del giornale e ha lasciato passare l'articolo. Giurerei e metterei le mani sul fuoco, rispose il canonico, che non lo lesse prima. È mio avversario, vede, eppure lo riconosco incapace di una siffatta bassezza. E ora che troveremo in casa di Roberto? Donna Caterina Auriti Laurentano abitava con la figlia Anna vedova anch'essa e col nipote, una vecchia e triste casa sotto la Badia Grande. Morto il marito, dopo appena 3 anni di matrimonio, Anna Auriti era quasi morta anch'essa per il mondo. Fin dal giorno della sciagura non era uscita mai più di casa, neanche per andare a messa le domeniche, né s'era mai più mostrata, nemmeno attraverso i vetri delle finestre sempre socchiuse. Donna Caterina aveva condiviso strettamente questa clausura della figlia, vestita anch'essa di nero fin dal 1860, data della morte eroica del marito a Milazzo. Ligia, magra, non aveva l'aria di mesta rassegnazione della figlia. Aveva sofferto tutto, donna Caterina Laurentano, anche la fame. Lei, nata nel fasto, allevata e cresciuta tra gli splendori di una casa principesca, la fame, quando, domata la rivoluzione del 1848, a 18 anni, col primo figliuolo neonato, Roberto, aveva dovuto seguire nell'esilio in Piemonte il marito, escluso con altri 43 dall'amnistia e condannato alla confisca dei pochi beni. Il padre, don Gerlando Laurentano, anch'egli tra quei 43 esclusi, la aveva allora invitata ad andare con lui a Malta, suo luogo d'esilio, a patto però che avesse abbandonato per sempre Stefano Auriti. Lei aveva rifiutato sdegnosamente, e con più sdegno aveva poi rifiutato l'elemosina del fratello Ippolito, il quale, con altri pochi indegni della nobiltà siciliana, era andato a ossequiar Satriano a Palermo e ne aveva ottenuto la restituzione dei beni confiscati al padre. Ed era andata a Torino col marito, tutti e due sperduti e come ciechi, a mendicare per quel figlioletto la vita. Dei 12 anni passati a Torino, donna Caterina serbava ormai una memoria vaga, confusa, come di una vita non vissuta propriamente da lei, ma piuttosto immaginata in un sogno strano e violento, in cui tuttavia sprazzavano visioni liete, qualche momento felice e ardente d'entusiasmo patriottico. Incancellabilmente impressa nel cuore, aveva invece l'ora del risveglio da questo sogno, allorché le era pervenuta la notizia che Stefano Auriti, partito col figliuolo appena 12enne da Quarto con Garibaldi per la liberazione della Sicilia, era caduto nella battaglia campale di Milazzo. Neanche la grazia di farla impazzire aveva voluto concederle Dio in quel momento. S'era rialzata per poco da quell'orribile avvilimento al ritorno di Roberto, accolto da tutto il paese quasi in delirio. Ancora, ricordando quel giorno, quel momento, le sue misere carni erano corse da brividi. Ah, con quale esultanza, con che spasimo d'amore e di dolore s'era serrato al seno il figliuolo che ritornava solo, senza il padre. L'eroe giovinetto dalla camicia rossa che il popolo le aveva recato sulle braccia in trionfo. Ma al torrente di sangue giovanile che avrebbe ristorato le vene esauste di Roma, la ragion di Stato aveva opposto ad Aspromonte un argine di petti fraterni. E Roberto, con gli altri, era stato preso e imprigionato, prima alla Spezia, poi al Forte Monteratti a Genova. Nel 1866, dietro a Garibaldi, di nuovo. Solo nel 1871 gli era venuto fatto di laurearsi in legge e subito era andato a Roma per provvedere, dopo tante vicende tumultuose, alla propria esistenza e a quella dei suoi. Fra il trambusto violento della nuova vita nella terza capitale, tra la baraonda oscena e i tanti che vi si abbarruffavano reclamando compensi, carpendo onori e favori, il suo Roberto s'era perduto, stimando semplicemente come suo dovere quanto aveva fatto per la patria, non aveva voluto né saputo a campare alcun diritto a compensi. Aveva forse sperato e atteso che gli amici, i compagni, si fossero ricordati di lui, dignitoso e modesto. Poi, forse, lo schifo lo aveva vinto e tratto in disparte. E quel rovinio era sopravvenuto in Sicilia di tutte le illusioni, di tutta la fervida fede con cui s'era accesa la rivolta. Povera isola, trattata come terra di conquista, poveri isolani, trattati come barbari che bisognava incivilire, ed eran calati i continentali a incivilirli, calate le soldatesche nuove, calati tutti gli scarti della burocrazia, e liti, e duelli, e scene selvagge, e falsificazioni, e sottrazioni di documenti, e processi politici ignominiosi, e usurpazioni, e truffe, e concussioni, e favori scandalosi, e scandaloso sperpero del denaro pubblico, spese pazze, cortigianerie degradanti, l'oppressione dei vinti e dei lavoratori, assistita e protetta dalla legge. E assicurata l'impunità agli oppressori. Da due giorni, da che Roberto era arrivato a Girgenti, usciva dalla bocca amara di donna Caterina Auriti questo fiotto veemente di crudeli ricordi, da acerbe rampogne, di fiere accuse. Guardando il figlio attraverso le palpebre rilassate, con quell'occhio quasi spento, si votava il cuore di tutte le amarezze accumulate in tanti anni, di tutto il dolore di cui l'anima sua s'era nutrita e attossicata. «Che speri? Che vuoi?» gli domandava. «Che sei venuto a fare qui?» E Roberto Auriti, investito dalla furia della madre, taceva, aggrondato, a capochino, con gli occhi chiusi. Aveva ormai 43 anni, già calvo. Si sentiva veramente sconfitto. L'animo, troppo teso negli sforzi della prima gioventù, gli era venuto meno a poco di fronte alla nuova, laida guerra. Guerra di lucro, guerra per la conquista indegna dei posti. E ne aveva chiesto uno anche lui. Ah, non per sé, ma per il fratello Giulio, e lo aveva ottenuto al Ministero del Tesoro. «Per carità, monsignore, glielo faccio intendere anche lei, che è amico sincero. Qui siamo tra di noi», disse donna Caterina. «Anche questo signore, se l'ha condotto lei, sarà un amico. Io voglio persuadere mio figlio a non accettare questa lotta». «Mamma!» pregò Roberto con un sorriso afflitto. «Sì, sì!» incalzò la madre. «Lo dicano loro! Cosa ha fatto Roberto? E perché? E in nome di che cosa viene oggi a chiedere il suffragio del suo paese? Forse in nome di tutto ciò che fece da giovinetto? Eh? In nome del padre morto? Dei sacrifici? E degli ideali per cui questi sacrifici furono fatti? E per quello straccio che ha sofferto? Farà ridere!» «Oh no, ma perché, nonna Caterina?» si provò a interrompere il canonico Agrò, portandosi una mano al petto. «Ma non dica così, ridere, ridere!» incalzò quella con più fuga. «Lo sa bene anche lei, come quegli ideali si sono tradotti in realtà per il popolo siciliano. E che ne ha avuto? Come è stato trattato, oppresso, vessato, abbandonato e vilipeso? Gli ideali del 48 e del 60, bah! Tutti i vecchi qua gridano, meglio prima, meglio prima! E lo credo anche io, sa? Io, Caterina Laurentano, vedova di Stefano Auriti. Mamma, mamma!» supplicò Roberto con le mani agli orecchi. E subito la madre. «Sì, figlio mio, perché prima almeno avevamo una speranza, quella che ci sostenne in mezzo a tutti i triboli, che tu sai e non sai, là, a Torino. Nessuno vuol saperne più, ora. Credi, troppo cari si sono pagati quegli ideali. E ora, basta, ritornandone a Roma. Non voglio e non posso ammettere che tu sia venuto qua in nome del governo che ci regge. Tu, Non hai rubato, non hai prestato manforte a tutte le ingiustizie e le turpitudini che qua si perpetrano, protette dai prefetti e dai deputati. E allora perché? Che titoli hai per essere eletto, eh? Ma chi ti sostiene? Chi ti vuole? Entrò nella sala un giovinetto alto, smilzo, a cui le lenti, serrate in cima al naso, congiungendo le folte sopracciglia, davano un'aria di cupa e rigida tenacia. Era Antonio del Re, il nipote. Pallidissimo di solito, appariva in quel momento, quasi cereo. «Hanno letto nell'Empedocle?» domandò con un fremito nelle labbra e nel naso. Il canonico Agrò e il cavalier Mattina alzarono subito le mani per impedire che seguitasse. Donna Caterina accorse, ma troppo tardi. Roberta Auriti, ignorando quel che poc'anzi aveva fatto il Veronica, era corso, pallido, col volto contratto da un sorriso spasmodico e come un cieco, alla redazione di quel giornalucolo presso Porta Atenea. Al vecchio usciere che stava di guardia nella saletta d'ingresso, innanzi all'uscio a vetri della sala di redazione, aveva detto, ancor sorridendo a quel modo, che Roberto Auriti voleva parlare col direttore. Nella sala di redazione s'era fatto un improvviso silenzio. Poi, agli orecchi di Roberto, erano venute queste parole concitate. Era il Preula. «Oh, signori, vado io, tocca a me. L'articolo l'ho scritto io e io ne rispondo.» Ma non aveva neppur visto chi gli si era fatto innanzi. Lauriti gli si era lanciato addosso come una belva. Lo aveva levato di peso e scagliato con tale impeto contro l'uscio che questo s'era sfondato con gran fracasso e rovinio di vetri infranti. Quando il Veronica, il cavalier Mattina e il nipote Antonio del Re sopraggiunsero a precipizio, tra la ressa della gente accorsa da ogni parte, Marco Preula, col volto insanguinato e un coltello in mano, si dibatteva ferocemente sbraitando. «Lasciatemi, maledetti! Lasciatemi! Se lo liberate adesso, l'ammazzo più tardi! Lasciatemi, ho detto! Lasciatemi!»